No, no, no, mi fa schifo la vita che fai. Mi hai detto no, no, no, io non voglio la metà dei tuoi guai. Poi la notte se n'è andata e ha lasciato tutti i lividi a noi. E il mattino è arrivato, il gasolio è finito e tu più non ci sei. Dove sei? Dove sei? Mi hai detto no, no, no, hai rapinato tutti i sogni miei. Hai fatto no, no, no, ed hai preso tutti i vestiti tuoi. Poi la notte se n'è andata e ha lasciato tutti i brividi a noi. Ed il giorno è arrivato, il baule è svuotato e tu più non ci sei. Con chi sarai e che farai? Con chi sarai, che farai, che farai? Sarai che farai, però dimmelo, se no divento pazzo, divento pazzo, sparo proiettili in aria perché divento pazzo, e se son pazzo, poi dopo spacco il mio cuore, mi mangio il dolore e lo sputo agli dèi. Ti ho detto no, no, no, non faremo più come Bonnie e Clyde. Ti ho detto no, mai mie no, son promesse da marinai. Ed ora per un po' di whisky non so cosa darei. Ma qui dietro le sbarre un goccio di whisky non lo servono mai. Ma dove sei? Ma dove sei? Che cosa sei ora? Che cosa sei? Con chi sarai e che farai? Con chi sarai, che farai, che farai? Con chi sarai e che farai? Con chi sarai, che farai? Però scrivimi, se no divento pazzo, divento pazzo. Un'ora d'aria non basta perché divento pazzo, e se son pazzo, poi dopo spacco la testa contro la finestra e lascio la memoria volare, scappare, salire agli dèi.